Ciao a tutti amici del quartiere. In questi tempi di segregazione e contro la volontà del mio vicinato, ho fatto un piccolo mix per voi, giusto così per rallegrare, riempire le nostre giornate e per smuovere un po' i nostri culetti statici in quarantena. Buon ascolto, hope you dig it. Thank you. Reasons to be dismal. Mm-hmm.